Italia in controluce. L'avete sentito nei nostri GR della tromba d'aria che ha colpito Taranto e l'Ilva questa mattina. Oggi a Controluce avremmo voluto parlarvi della crisi dell'azienda tarantina che rischia di chiudere battente. Come sapete, avremmo voluto raccontarvi le paure degli operai per un futuro che si fa davvero incerto, un futuro appeso all'incontro che ci sarà domani a Roma con il governo e al decreto che l'esecutivo sta preparando e che dovrebbe essere approvato già questa mattina. Invece siamo costretti a raccontarvi tutta un'altra storia, raccontarvi una città colpita appunto da una violenta tromba d'aria che non ha risparmiato ovviamente neanche lo sfortunato stabilimento dell'Ilve. Allora noi torniamo a fare il punto con la nostra inviata a Taranto, Raffaella Calandra. Naturalmente questa puntata di Controluce è una puntata speciale che andrà ben oltre i suoi confini del quarto d'ora, perché insomma ci sono notizie che arrivano sempre più drammatiche da Taranto. Allora Raffaella Calandra, quali sono le informazioni che hai? Beh Piera, allora di sicuro possiamo dire, considerando quello che tu hai premesso, che dopo la bufera giudiziaria ora sembra che anche la natura sembra accanirsi su questa acciaieria che è stata investita appieno dal passaggio di una tromba d'aria. Un mulinello nero infatti intorno alle 10:30 si è formato intorno ai camini con l'aria nera delle polveri e quando è andata via ha lasciato dietro di sé crolli e feriti all'interno dello stabilimento come nel resto della città. In questi istanti ci arriva però la notizia che il sindaco Stefano ha parlato di 3 morti, ma al momento non sappiamo se ci siano stati all'interno dell'acciaieria o fuori. Di sicuro l'azienda fino a questo momento ha negato la presenza di feriti gravi né tantomeno di vittime all'interno degli stabilimenti. Saremo a vedere appunto nei prossimi minuti se avremo delle informazioni più precise. Di sicuro questa mattina all'interno degli stabilimenti ci sono stati dei momenti di tensione, come abbiamo potuto capire dal racconto che gli stessi operai ci hanno fatto e come abbiamo vissuto in un certo senso noi stessi in diretta, perché arrivando proprio all'ingresso dell'Ilva siamo stati costretti ad allontanarci per un rischio esplosione. Che sì, perché Raffaella, tu questa mattina eri riuscita ad entrare dentro la fabbrica, insomma, quando si è saputo che appunto la tromba d'aria aveva colpito, forse anche fatto crollare una ciminiera. Poi cosa è successo? Ecco, poi è successo, ero praticamente all'ingresso dell'Ilva, che proprio in quel momento dietro di me stavano arrivando a raffica tutti i vari mezzi dei vigili del fuoco, oltre che decine di ambulanze e un via vai totale di sirene. È successo che in quel momento sono stata costretta ad allontanarmi da questo spiazzale che è alle spalle proprio dell'Ilva, che è all'ingresso dell'Ilva, perché in quell'istante appunto stavano dando un ordine di evacuazione per un rischio di esplosioni. Allora, in realtà questo è un passaggio che non è molto chiaro, perché quando poi ho parlato con anche gli operai che sono usciti dall'azienda, loro dicono di essersi, diciamo, un po' dati da sé l'ordine di evacuazione, perché proprio perché conoscono la realtà dove lavorano, conoscono la presenza di gas, di ossigeno e quindi, diciamo, di tutti i fattori di rischio che ci sono, hanno deciso di lasciare questi stabilimenti proprio temendo un'esplosione. L'azienda infatti in una nota ha negato questo ordine di evacuazione. I fatti sono che gli operai sono usciti, certo, tutti dagli stabilimenti. Raffaella, dove sono crollati? Ti interrompo perché siamo in collegamento con il sindaco di Taranto, Ippazio Stefano, e allora è a lui che rivolgiamo la domanda, insomma, che ci racconti che cosa è successo nelle ultime ore a Taranto. Stefano? Guardi, l'ennesima sventura di questa città. Auguriamoci che sia, voglio dire, la chiusura della parentesi negativa e che Taranto pensi allo sviluppo, al futuro e essere al servizio della nazione come sempre. Questo senz'altro, però insomma, che cosa è successo questa mattina? È successo questa tromba d'aria che si è verificata soprattutto nella zona industriale e fortunatamente ci sono soltanto molti danni materiali, ma feriti 20, ma soprattutto nella città di Statte e nella strada automobilisti le cui macchine sono state ribaltate, e invece ci sono stati incendi, ci sono stati anche, si è sospettato una fuga di gas, però fortunatamente il servizio ha funzionato benissimo, erano presenti moltissimi vigili del fuoco che già come azione preventiva in questi giorni erano lì presenti, pensi che il comandante dell'Addirittura Generale della Regione dei Vigili del Fuoco era presente a Taranto come azione preventiva e quindi c'è stato un intervento massiccio, certo. Ha funzionato tutto, i vigili urbani hanno controllato le strade. Sindaco, alcune... Non c'è pericolo. Però no. Alcune fonti di informazione peraltro la citano in riferimento a 3 vittime, quindi lei sta smentendo questa notizia? Aspettano un attimo, non ho finito. Dunque, soltanto questa fonte viene dal 118, perché io naturalmente ho contattato tutti per avere... c'è soltanto un disperso che stanno cercando i vigili del fuoco nella zona portuale, ma ancora non si sa se questa persona, questo lavoratore era presente o fosse andato altrove, lo stanno cercando, manca l'appello a questo lavoratore, c'è un trauma cranico. Il 118 parla di tre persone che hanno perso la vita. In questo momento però c'è il vertice in prefettura proprio per coordinare le varie informazioni che vengono, perché questa è un'informazione che viene dal 118. Ci auguriamo che sia un'informazione proprio, ma non appartiene all'area industriale. Queste sono le fonti. Sindaco, lei dove si trova? Io in questo momento sono in viaggio per Roma, ma sono in contatto al momento, abbiamo coordinato e sono tuttora in contatto in quanto c'è un assessore presente in questa riunione e ho immediatamente accertato mandando un ufficiale dei vigili urbani all'imprefettura per essere un collegamento diretto per tutte le azioni da collegare e anche un funzionario del comune per creare un filo rosso con la prefettura e con la protezione. Ecco, i cittadini cosa devono fare? Vuole dire qualcosa, no, ai tarantini? Stare sereni e essere, ringraziamo che abbiamo superato quest'altra crisi con pochi, con feriti, e certamente sì, e auguriamoci senza deceduti. Ci auguriamo che quella informazione sia un'informazione sbagliata. Speriamo. Sindaco, la ringraziamo, grazie, la lasciamo al suo viaggio per Roma, così importante, perché insomma domani davvero l'Ilva, fra domani e dopodomani si gioca il suo futuro, è così? Bene, salutiamo Stefano dunque che sta viaggiando verso Roma e torniamo a Taranto. Lo facciamo collegandoci con il collega del Sole 24 Ore, Domenico Palmiotti. Buongiorno Domenico. Buongiorno Piera, buongiorno. Ecco, abbiamo parlato molto di quanto accaduto all'Ilva, no? Nello stabilimento dell'Ilva. La nostra Raffaella Calanda ci ha raccontato le fasi concitate dell'evacuazione. Cosa è successo invece altrove? Diciamo che le aree critiche sono lo stabilimento dell'Ilva, le strade che portano all'Ilva e Extat, un piccolo comune che si trova a 3-4 km dal centro siderurgico. Qui la tromba d'aria si è abbattuta con grande violenza e si segnalano danni soprattutto alla scuola media Leonardo da Vinci, dove la tromba d'aria ha divelto le vetrate, ha mandato in frantumi le vetrate causando circa una ventina di feriti, fra cui 6 bambini che sono stati trasportati per le medicazioni al vicino ospedale Stati. Non sarebbero in gravi condizioni. Il sindaco di Statte, Angelo Miccoli, che è sul posto, parla di situazione molto critica e di un senso di paura che ha subito pervaso tutto il paese di Statte, che in queste ore è presidiato in modo ingente da mezzi di soccorso e dai carabinieri. In quanto alla notizia dei 3 dispersi, questa notizia sta girando ma non trova conferme, almeno per il momento. Ecco, come ci ha detto poco fa anche il sindaco, ai carabinieri e alla prefettura. Sta cominciando in questi momenti un vertice che il prefetto ha convocato con le forze di protezione civile e le forze di polizia. Su Taranto c'è un massiccio dispiegamento della protezione civile anche regionale e dei vigili del fuoco, sono giunte squadre e mezzi anche dal comando di Bari, proprio perché c'è una situazione critica lungo le strade che portano all'Ilva, quindi nella parte occidentale della città e nel comune di Stato. tratte. Avete parlato molto dei danni materiali, strutturali, provocati dal maltempo, dalla tromba d'aria all'interno dell'Ilva, ma anche le strade sono piene di palizzate, recinzioni, alberi caduti, immagino, alberi diversi, certo. Mezzi che sono di traversa, e quindi la circolazione in quei punti è molto molto critica. La regione, il governatore Vendola, ha anche disposto l'invio a Taranto di alcuni assessori, fra cui Fabiano Amati, che è responsabile della protezione civile, e questo vertice che sta per cominciare in prefettura dovrebbe servire a fare un po' il punto della situazione. Non si segnalano danni o episodi rilevanti in altre parti della provincia, quindi diciamo che dal quadro delle informazioni che emerge sinora, le zone più colpite sono appunto lo stabilimento siderurgico e il vicino comune di Statte, dove ci sono una ventina di feriti, fra cui 6 bambini, e questa è la situazione più preoccupante. Grazie, diciamo. Grazie a Domenico Palmiotti. Italia in controluce. Torniamo insieme per raccontarvi quanto sta accadendo a Taranto, torniamo insieme per raccontarvi cosa è successo questa mattina a Taranto. Poco fa abbiamo sentito il sindaco della città, Ipazio Stefano, che non ha confermato in effetti l'esistenza di 3 vittime, purtroppo, di quanto successo questa mattina, della tromba d'aria che si è abbattuta su tutta la città e in particolar modo sullo stabilimento dell'Ilva. Ebbene, vogliamo ricominciare proprio sentendo come la nostra Raffaella Calandra, erano passate da poco le 12, ci raccontava alle fasi convulse dell'evacuazione dello stabilimento. Sì, Simone, buongiorno. Io mi trovo proprio davanti dall'Ilva e anzi sono stata costretta ad allontanarmi perché all'arrivo dei vigili del fuoco hanno dato l'ordine di evacuazione dell'intera zona per rischio esplosione, mi dicevano alcuni operai che stavano scappando dagli stabilimenti. C'è stata una fortissima tromba d'aria poco fa che ha causato tantissimi danni nella zona, con dei crolli anche di camini all'interno dell'Ilva, ma io ho qui con me Vincenzo, che è un operaio dell'Ilva che è stato tra i primi a scappare. Che cosa è successo dentro? Ma dentro è successo sostanzialmente che si è assistito a una cosa che è difficile vedere a queste latitudini. Volava di tutto, un vento fortissimo, volavano i cassonetti, volavano le coperture dei nastri che sono fatti in acciaio e pesano 100 kg l'uno. Noi ci siamo trovati in una situazione in cui abbiamo cercato di ripararci all'interno delle strutture, dopodiché abbiamo deciso, tramite il contatto diretto anche con i nostri responsabili, di avvicinarci alle portinerie, dopodiché ci hanno detto di uscire perché lo stabilimento andava evacuato. Questo è quello che, questo è il quadro in questo momento, pare ci siano anche dei dispersi, delle persone che risultano ancora all'interno della struttura. Di sicuro quello che vedo è un andirivieni di ambulanze e di vigili del fuoco che stanno cercando di entrare all'interno dell'area a caldo, quella che è ancora in funzione perché appunto non è stata spenta, ma ci sono persone anche all'interno dell'area a freddo. Questa tromba d'aria che ora è passata, insomma, ha causato grandissimi danni e ovviamente staremo a seguire la situazione, soprattutto preoccupante qui all'interno dell'Ilva. Simone. E proseguiamo invece qui da Italia in controluce con le testimonianze che Raffaella Calandra questa mattina ha raccolto ai cancelli dell'Ilva proprio dopo il passaggio della tromba d'aria. Sentiamo quest'altro operaio. Il crearsi di questa tromba d'aria che è passata, ha attraversato l'Ilva dalla direzione verso la Tostatte. Si è alzata polvere, abbiamo visto delle esplosioni, abbiamo visto tanta polvere, ma veramente tanta polvere, e poi lamiere e quanto più poteva portarsi in aria. Esplosioni, voi avete capito di che tipo? No, perché sembravano tra corrente elettrica, e poi c'è stata quella vampata, di preciso non glielo so dire, però c'è stata questa grande fiammata in aria, e poi i danni si possono vedere. Se va di qui si vede proprio dove è passata, che ha buttato a terra muri così grandi, l'ha completamente divalsi a terra. Ecco, voi eravate all'interno e ci sono stati anche dei crolli di 2 camini. Non li abbiamo visti perché dove stavamo noi non li abbiamo visto nulla. Voi avete avuto un ordine di evacuazione perché sì, siete scappati? Ci siamo sentiti tra il caporeparto, i tecnici che c'erano, e poi noi stessi abbiamo fatto una valutazione, anche perché si è sentita puzza di gas. Avendo l'ossigeno vicino, il gasodromo vicino, è ovvio che uno non è che scappa, però va via. Certo, quindi non avete avuto un ordine di evacuazione, però comunque voi stessi vi siete resi conto. Dopo qualche minuto sarà arrivato sicuramente l'ordine di evacuazione. Lo dicevamo, ce lo raccontava anche il sindaco Stefano, un operaio risulta disperso. Secondo i vigili del fuoco l'uomo sarebbe stato al lavoro nella cabina di una gru finita in mare dopo la tromba d'aria. A Taranto intanto stanno arrivando proprio le squadre dei sommozzatori per le ricerche. Noi qualche minuto fa ci siamo collegati con la zona del porto e con Aldo Ranieri, che ha lavorato per anni all'Ilva e ora è portavoce del Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi. Allora, una tromba d'aria che fa crollare delle gru, che diciamo non è un evento climatico, quindi non è un evento prevedibile. È prevedibile però il fatto che molti di questi impianti, i nastri trasportatori, i magazzini, sono fatti di lamiere, e molte lamiere erano già divelte prima che arrivasse la tromba d'aria. Però non si è mai fermato il nastro per intervenire, perché non si può fermare la benzina allo stabilimento, bisogna fare profitto. Quindi si trascura e si continua a lavorare, per cui basta un po' di vento. Cioè non è che è la prima lamiera che salta via e raggiunge il terreno. Questa cioè non volta, viene fatta manutenzione, insomma? Non viene, assolutamente no, non solo, ti dirò di più, che in caso di condizioni avverse climatiche, vento o pioggia, le macchine, quelle gru, non possono lavorare, non ci può essere nessuno sopra, eppure a quanto pare c'è gente sopra. E su quelle macchine si va a lavorare da soli, quando c'è vento, su quelle macchine, sulle gru, che sui caricatori, sugli scaricatori, non si può accedere quando c'è vento e quando c'è pioggia, dovrebbe essere vietato, però a quanto pare c'erano dei lavoratori sopra le gru. Perché c'erano dei lavoratori? Chi li ha mandati? Quindi ci sono dei responsabili. Non solo, si lavora, si va ad operare normalmente, ci sono alcuni capi che mandano a lavorare da soli i lavoratori su quelle macchine. Io, siccome appartengo a questo reparto, ho obiettato questo problema e sono stato spostato da dovere. Quando sono andato a dire io non ci vado da solo a lavorare, mi hanno preso e mi hanno spostato. Senta, ma che gru sono? Sono le gru che sono al porto, giusto? Cosa certo, fanno? Allora, queste gru scaricano le navi dalle materie prime, cioè arriva, da un lato arrivano le navi con le materie prime, da un lato arrivano le navi con il prodotto che serve per alimentare gli altri forni, dall'altro lato, dallo sporgente, ci stanno le altre navi che caricano il prodotto finito. Allora sono gru immense che scaricano e caricano le navi. Queste sono le gru, i caricatori. E sono crollate questa mattina? Qualcuna si è spezzata e qualcun'altra invece si è ribaltata ed è finita in mare. Ecco, abbiamo sentito le accuse all'azienda per la scarsa sicurezza. Naturalmente nelle prossime ore, nei prossimi giorni si farà luce su quanto accaduto, se davvero non tutte le regole di sicurezza siano state rispettate. Raffaella Calandra, allora, hai altre informazioni? Ma se non informazioni, diciamo, di servizio, che però non sono secondarie, perché tutta la zona ampia intorno all'Ilva continua ad essere chiusa, quindi anche le persone che sono in auto e che stavano andando in direzione del comune di Statte, quello come sentivamo prima, che è stato anche molto danneggiato dalla tromba d'aria, dove ci sono i bimbi feriti, non riescono a raggiungere Statte dalla provinciale passando accanto all'Ilva, per cui c'è una deviazione. L'intera zona è ancora quindi chiusa per precauzione, perché i vigili del fuoco stanno ancora lavorando e la tromba d'aria di questa mattina e un fulmine ha colpito anche le linee ferroviarie, per cui ad un certo punto c'era stato il blocco anche della linea ferroviaria tra Bari e Taranto. Bisognerà verificare se sia ripresa o meno. Quindi, diciamo, una città che fa fatica a tornare naturalmente alla normalità, sono le prime ore, quindi naturalmente tutti si danno da fare. Ecco, per tornare invece un po' all'Ilva, insomma, abbiamo sentito le accuse di Aldo Ranieri all'azienda per quanto riguarda la mancanza di sicurezza. Naturalmente noi su questo ancora non possiamo dire un granché, però c'è da aspettarsi che ci sarà magari l'apertura di un nuovo fascicolo e andrà a complicare ulteriormente la situazione? Beh, è molto probabile, soprattutto nel caso in cui ci sappiamo che non essere... sono proprio idilliaci i rapporti fra l'azienda e, la... e gli inquirenti in questo periodo. Tutt'altro, direi tutt'altro, considerando i nuovi 7 arresti. Adesso ci sarà il ricorso al riesame e dopo la pronuncia di quel riesame, a quella pronuncia è legato anche il destino degli stipendi degli operai che in questo momento si trovano in ferie forzate. Nel caso in cui ci fossero delle vittime, sicuramente un fascicolo andrà aperto, ma anche nel caso di feriti che già sappiamo, per cui di sicuro in qualche modo la procura tornerà a mettere il suo sguardo all'interno dell'ILVA anche sul fronte di una sicurezza per altre ragioni oltre a quella dell'inquinamento che raccontiamo da tempo e che segna un po' in questo momento il bivio della storia dell'ILVA. Vedremo domani il decreto del governo che cosa stabilirà. Grazie alla nostra Raffaella Calandra, grazie a Domenico Palmiotti, al collega del Sole 24 Ore. Abbiamo fatto un po' il quadro di quanto è successo questa mattina, naturalmente continueremo a seguire l'evolversi della situazione nei GR24, a cominciare da quello a cui proprio lascio il microfono.